arrivano gli sposi! Sì, sono qui! Viva gli sposi! Viva! All'amore, amore! All'amore, amore! Francesco, dimmi, che cosa pensi dell'amore? Io sono esigente, sono prepotente, a luci spenti in amore, e tu procopio la vittima. Ah, l'amore è la cosa più bella e meravigliosa del mondo. Non è vero, Peppino, mio caro cugnato? Io? Porca miseria, ho la vacca malata, lavoro 20 ore al giorno, dopo mia suocera scrive sempre, devo pagare ogni mese le tasse scolastiche per i miei 18 figli. 18. E non è tutto, non è tutto ancora. Mia moglie questa settimana mi ha regalato due gemelli. L'amor, porca miseria. Che parli la sposa? Ma niente, parla. L'unica cosa pericolosa ma deliziosa è l'amor. L'unica cosa meravigliosa ma contagiosa è l'amore. Gira e rigira nel mondo, non c'è cosa migliore per me. Non mangio, non bevo, non dormo, non vivo che d'amore. Non scrivo, non leggo, non fumo, non vivo che d'amore. Ah, l'amore. Bella invenzione, bella! Oh, che dolce illusione, più dolce, più dolce. Non mangio, non bevo, non dormo, non vivo che d'amor. Son delinquente, compromettente, ma travolgente in amor. Chiodo con chiodo mi piace scacciare, donna con donna cambiare. E meglio parla mia sorella! Marietta, ripeti quello che dicevi! Gira e rigira nel mondo, non c'è cosa migliore per me. Non mangio, non bevo, non dormo, non vivo che d'amor. Non scrivo, non leggo, non fumo, non vivo che d'amor. L'amor, bravo! Che bella invenzione, bella! Oh, che dolce illusione, più dolce, più dolce. Non mangio, non bevo.